Lei ha già citato le antiomelaridecee che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. È stato che oggi Antocianine, non lo so. Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. Felicità. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Come porti i capelli, bella bionda, tu li scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli onda, me li fa, dipende li molto lontano, anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro, tu poi qua faccio, con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie... in mezzo al mar, sì. Ci stanca minchia. Potete raccontarci come li portate, corti, lunghi, raccolti, rasati, arricciati, a cespo di insalata, ma diteci soprattutto come li vedete. Sono forti, lucidi, corposi, oppure vi paiono fragili, privi di tono, si spezzano, si diradano? Allora, mi raccomando, non abbattetevi, non perdete la testa. La tricologia ci può venire in aiuto, è una scienza in evoluzione e la ricerca scientifica propone sempre nuove possibilità di cura, non solo medica, ma anche chirurgica e cosmetica. Allora, non perdetevi la puntata di oggi, 800 24 00 24, parleremo di cure ordinarie e straordinarie, ma soprattutto di segnali di sofferenza dei nostri capelli e delle nuove opportunità messe oggi a disposizione per, non dico farli ricrescere, ma insomma non farli perdere, ma insomma lo scopriremo strada facendo. Mi hai dato anche oggi un assist ideale per lanciare il giornale della famiglia del Sole 24 Ore, che si intitola Il segreto della crescita. Perché noi siamo sempre in intrecciatissimi, non della ricrescita, che è un'altra cosa, proprio della crescita. In realtà qua parliamo della uscita dalla grande recessione che ci ha attanagliato in questi ultimi 7-8 anni e quindi insomma il Sole 24 Ore scandaglia un po' tutti gli argomenti al centro dell'analisi macroeconomica recente. Ma se per molti i capelli sono in caduta, non si può proprio dire lo stesso delle borse, che saranno le protagoniste della seconda parte della puntata di oggi, quando nella pagina di denari torneremo ad aprire la nostra rubrica Investire Informati. Ci focalizzeremo in particolar modo sul mercato azionario, sui suoi record che così spesso negli ultimi tempi abbiamo sentito citare. Ma c'è ancora del valore in borsa? Ci chiederemo anche questo. Speriamo di rispondere con Lorenzo Alfieri di JP Morgan. Come sempre l'obiettivo è raccontarvi i temi finanziari in modo semplice per i piccoli risparmiatori e di darvi qualche consiglio utile. Allora, anche su questo argomento iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia. Di problemi capelli ce ne danno tanti, specie se sono o ci paiono pochi. Questa è una delle preoccupazioni più frequenti sia negli uomini sia nelle donne, ma non è la sola. Grande attenzione naturalmente viene posta ai problemi di fragilità, di tono, tenuta. Insomma, di tutto questo e di molto altro ancora ci occuperemo oggi, finalmente, dico, perché è la seconda volta che ci proviamo, insieme al professor Fabio Rinaldi, che è tornato in studio con noi. Sì, buongiorno. Specializzato in dermatologia e venerologia presso l'Università di Milano e presidente dell'International Hair Research Foundation. Ce la faremo oggi, vero? Perché non rievochiamo la giornata allora, di giovedì scorso. È stata un'esperienza diversa. Oggi non ci porti fuori, ma ci porti davanti allo specchio e ci guidi un po' in un'autoanalisi. Oggi vorremmo proprio cogliere le differenze tra i capelli maschili e i capelli femminili, che sono, e anche i segnali di sofferenza. Facciamo una distinzione di genere. Ma intanto andiamo davanti allo specchio. Andiamo davanti allo specchio, e se c'è un uomo e una donna donna davanti allo specchio, un adulto giovane normale che sta bene, sicuramente ha la donna, la ragazza ha dei capelli più belli di quelli dell'uomo in assoluto. È come sempre il genere femminile meglio, nel senso che c'è tutta un equilibrio, una componente tale per cui i capelli di per sé sani sono più belli, più grossi, più luminosi, crescono di più. La fase attiva, che si chiama anagen, dura qualche anno, 4-5 anni, in un uomo dura 2 o 3, quindi insomma non possono diventare così lunghi mediamente. Un uomo li ha sempre un po' più fini, un po' più corti, un po' meno belli. Poi, siccome sono di solito più corti, magari appaiono sani comunque, perché man mano che il capello si allunga diventa inevitabilmente più brutto e si rovina, però diciamo che una donna li ha più belli. Certo. Normalmente 80% degli uomini oltre i 20-25 anni, ma da una ricerca che abbiamo fatto noi come fondazione nel 2008, il 18% degli adolescenti, quindi un numero altissimo, comincia a presentare un livello di alopecia androgenetica, che è la patologia, è una patologia anche se non implica problemi, malattie, però i capelli cominciano a diradarsi tipicamente nella zona delle fronte, del vertice, mentre le donne nel 18% ci sono, ma sono casi, le donne e le ragazze sono meno, le donne normalmente lo manifestano dopo la menopausa, quindi diciamo che due giovani adulti davanti allo specchio sono che magari lui un po' meno capelli sulle tempie o sul vertice, sulla chierica ne ha, la ragazza invece probabilmente no. Però la ragazza ha altri problemi, per cui possono essere che ne cadono di più, perché perdendo ferro con un ciclo mestruale più o meno abbondante, certo, con delle diete che non sono sempre equilibrate, esatto, che una donna tende di più a cercare di fare per mille motivi e magari non la fa bene, chiaramente può avere una caduta maggiore, si chiama defluvium. Praticamente tutte le donne nella vita hanno un qualche episodio di defluvium, che vuol dire cascano troppo velocemente. Normalmente si recupera, l'uomo meno problematico. Cambio stagione, per esempio. Per esempio la primavera tanto quanto l'autunno. Nella spazzola quanti ne troviamo, Nicoletta, adesso? Tra la spazzola, sul lavandino, sul cuscino. Diciamo che noi dobbiamo, allora, voi suggerite che, no, non dico di contare i capelli, ma di fare una valutazione a numero. Ecco, superiore ai 100 capelli dovremmo essere già nella fase di allerta. Certo che uno non è che può mettersi a contare 1, 2, 3, però ahimè, insomma, c'è un sacco di gente che lo fa. Ma il problema è che è chiaro che si vengono da lei con i capelli. Con questi sono quelli che ho trovato. Questi sono quelli che ho trovato ieri, oggi. Mi ricordo di una signora qualche anno fa che aveva addirittura un grafico. Veramente. Come l'andamento dei BTP. E non era Deborah, perché Deborah ha dei capelli magnifici. Però diciamo che un centinaio di capelli al giorno, dipende quanti uno ne ha in testa. Io 100 non me li posso permettere, ma chi ne ha di più se li può permettere, possono anche essere normali. Poi oggi di più, domani di meno. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Diteci anche se, provando a fare la coda, avvertite che i capelli hanno perso un pochino di volume, perché la coda è più piccola, no? Prima mi facevo una coda che era bella, adesso diventa una codina. Oppure avete la sensazione che i vostri capelli siano sempre alla stessa lunghezza, quindi non avete bisogno di andare dal parrucchiere, che potrebbe essere un risparmio, però sti capelli non crescono, sono sempre fissi lì. 349-238-6666 se volete scriverci, oppure potete seguirci su Facebook o su Twitter. Fischello maschio, diciamo, i vecchiori di capelli hanno sti gel, il gel, prima di scegliere ci mettono mezz'ora per il gel. Ora non è che ci sono i gel come c'era una volta, che avevamo noi il gel che mettevo, poi cadeva, diventava farina, mi ricordo, facevi così e si vola. No, loro hanno quelli lì, sgrafico, scolpito, e a me mi si è rotta la brocca dell'acqua, io non avevo la cosa per attaccare, ho messo un po' di gel di questo che usano i ragazzi, proprio non si stacca più. Questi ragazzi hanno i capelli talmente duri che la sera quando arrivano a casa poi li tolgono e li mettono sul comodino. Grande, Fiorello, però tu ridi perché... No, mi fa pensare, è presente Big Jim Ken di Barbie, no? Con quella stessa cosa sulla testa. Dottor Rinaldi, oggi vogliamo parlare di cure ordinarie, di cure straordinarie, ma anche delle nuove tecniche messe a disposizione per riparare un po' i danni. Fermiamoci però, facciamo un passo indietro. Cerchiamo di capire se ci sono degli errori che commettiamo senza saperlo, per aiutare, con l'intenzione di aiutare e preservare la salute dei nostri capelli. Ci sono delle attenzioni o delle sgarberie che alla fine possono incidere anche sulla salute proprio del fusto e anche del bulbo pilifero? Assolutamente sì. tipo alimentazione non corretta, oppure alimentazione spinta come se facesse bene ma che in realtà sbilancia certe cose. Sì. Uno può essere vegano, vegetariano e va benissimo, ma per esempio i vegani hanno certe carenze di vitamina B che vanno per forza risistemate, o di vitamina D. Prendere il sole fa male, ma la vitamina D per esempio ai capelli fa benissimo. Uh-huh. E se non si prende sole e al di là della menopausa, di altre situazioni, ci può essere una carenza di vitamina D che fa male ai capelli. Oppure l'errore terribile persistente di non lavare frequentemente i capelli. I capelli vanno lavati tutti i giorni possibilmente o con la maggior frequenza possibile. L'inquinamento sporca e infiamma la pelle, l'autoproduzione di sporco infiamma la pelle che produce la caduta dei capelli. È l'equivalente di non lavare i denti tutti i giorni, magari tre volte al giorno, e la periodontite mi fa cadere i denti. Se la pelle si infiamma, allora arriva gente che dice: io li lavo ogni 10 giorni, se no rovino i capelli, però la pelle è rossa, desquamata, pruriginosa e i capelli cadono. Basterebbe lavarli con uno shampoo delicato tutti i giorni e cambierebbe. Allora, voi che fate per curare i vostri capelli, per mantenerli sani, quindi di conseguenza belli? Chiamateci, scriveteci, ma restate con noi se volete individuare i segnali che il dottor, il professor Rinaldi ha già anticipato del loro malessere, per conoscere i sintomi da non sottovalutare, cosa che facciamo soprattutto noi donne, perché pensiamo ancora che il problema della calvizie sia un problema solamente maschile, e soprattutto vogliamo conoscere le terapie oggi a disposizione e le ultime novità. Professor Rinaldi, ci sono dei disturbi che possono interferire sulla salute dei nostri capelli, e quindi il dermatologo è anche al tempo stesso deve fare un po' l'internista. Sì, esattamente come se i capelli cadono per o si diradano, succede qualcosa, anche un prurito forte, un bruciore del cuoio capelluto è importante ancora prima della caduta. Se cadono per un tempo superiore ai 20 giorni, un mese, o se si diradano abbastanza velocemente, conviene andare dal dermatologo, perché senza sottovalutare il sintomo capelli, perché può essere un sintomo, e normalmente lo è, se il corpo sta bene raramente i capelli cadono, salvo problemi genetici, ma si valutano, e quindi conviene andare per sistemare. È chiaro che bisogna sistemare la causa e poi i capelli stanno meglio. D'altra parte il dermatologo, che è lo specialista della pelle e dei capelli e delle unghie, che vanno viste insieme ai capelli, quindi nel contesto generale, tanto più individua la causa e dà la terapia più mirata, che magari ogni tanto è dire: guardi, lei non deve mangiare glutine perché non cadranno i capelli. Non le curi i capelli, le curi l'intestino, per dire. Certo. O mille per cui, cose così. La celiachia o una particolare, per esempio, sensibilità al glutine, una tiroide che non funziona a dovere. Lo stanno già chiedendo, infatti. E difatti questo è il concetto, ed è molto utile la domanda. I capelli non vanno bene, andiamo a farci vedere, esattamente come qualsiasi altro sintomo del corpo. Poi se è solo un problema estetico lo sistemiamo, ma se è anche un problema medico, a maggior ragione lo prendiamo. Emanuela ci chiama dalla provincia di Udine, buongiorno e benvenuta. Sono dottoressa, vi saluto, io vi stimo tantissimo, vi ascolto sempre, tranne quando sono in macchina, perché l'ultima volta mi trovavo nelle Marche, Urbino e patatrac, sono entrata nel centro storico per ascoltarvi senza fare il pari. No. Vabbè, ci giri la multa, vediamo se possiamo conciliare per lei, Emanuela. Lei è sempre gentilissima, dottoressa, vi ringrazio dell'invito, saluto il professor Rinaldi. Buongiorno professore, sono la sua paziente da 10 anni. Sì, il primo anno mi sono rivolta a 40 anni perché avevo problemi alla tiroide e poi soprattutto perché mi esponevo al sole senza alcuna precauzione. E, ultimamente mi sono rivolta a lei perché durante soprattutto l'età, lei già me l'ha risposto, mi sono rivolta a lei perché sentivo i capelli flosci, senza vigoria, senza energia, e adesso dopo 3 mesi di terapie posso dire di avere un'altra capigliatura sicuramente. Ecco la domanda che volevo porre: dato che i miei figli hanno bellissimi capelli, ho un figlio di 23 anni e una ragazza di 18, a quale età bisogna cominciare a fare delle indagini? Perché io penso certo. sia meglio prevenire che curare. Grazie. Grazie Manuela, è corretto professor Rinaldi? Sì, è corretto. Intanto prendo spunto da questo che se c'è un problema e se si fa una terapia che può essere utile, i capelli migliorano, quindi anche qui sfatiamo che i capelli non sono curabili, quindi mi rassegno, come qualsiasi malattia è curabile nei termini scientifici della vicenda, certo. evidentemente. Non c'è un'età in cui valga la pena cominciare a fare delle prevenzioni, ma magari cominciare a stare attenti ai primi sintomi. Cioè io posso vedere i figli della signora tutti gli anni, ma finché le cose vanno bene non ho niente da fare. Quindi al primo dubbio vale la pena intervenire. Mediamente in un uomo è intorno ai 23-24 anni, ma finché le cose vanno bene non c'è niente da fare. Ci sono persone che utilizzano a scopo preventivo o di mantenimento degli integratori, li troviamo un po' ovunque, sappiamo quali sono le vitamine che fanno bene ai capelli e ci sono dei preparati che contengono diversi elementi. Lei li suggerisce oppure l'integratore va preso solamente nel caso in cui venga diagnosticata dal medico una carenza, un problema, e quindi nel caso in cui ad esempio il problema dei capelli sia dettato da una carenza di ferro di vitamina B12. Sì, io credo che l'integratore vada preso come un farmaco. Merceologicamente non è un farmaco, ma può aiutare come un farmaco. Quindi prenderlo in assoluto per niente non serve a niente. Poi può essere che magari in certi momenti stagionali o dopo una situazione di fatica del corpo, l'allattamento per dire, che magari 2 mesi di integratori fanno sempre bene perché oggi ci sono gli integratori tranquillissimi e utilissimi, però non come abitudine, vale la pena che sia dato dei cicli, soprattutto dei cicli, quando Vero. serve, e poi dipende dall'integratore, non sono tutti uguali. Se uno è carente di ornitina prende l'ornitina piuttosto che un'altra cosa, quindi anche qui esattamente come una medicina andrebbe mirato sul problema più preciso. Allora abbiamo Francesco da Roma che anticipa un po' il tema della seconda parte della trasmissione, in cui vorremmo parlare di tecniche oggi a disposizione per ritrovare delle belle chiome. Francesco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, io ho una piccola perdita di capelli, nel senso, non sono calvo, premetto, però ho una piccola perdita e ce l'ho tuttora. Anche se mi sto curando, sono andato in un centro proprio specializzato, senza fare i nomi perché non è giusto fare pubblicità, però non è giusto fare pubblicità, certo. Però me li sto curando, ho degli ottimi risultati, però non è come vorrei io, nel senso che quindi io mi vorrei... non è accontentato, insomma. Non è accontentato, nel senso che è migliorato, ma no del tutto, nel senso che io vorrei andare verso il lato trapianto. Un consiglio, se va bene, va meno bene, ci possono essere dei problemi o meno. Allora, Francesco, a parte che diagnosi telefoniche non si possono fare, perché di solito tutti i medici, ma soprattutto i dermatologi, devono venire. Hanno un po' questo vizietto qua, che vogliono guardare. Però, Francesco, ci introduce ad un tema, che è quello dell'autotrapianto. Allora lui giustamente ci chiede, faccio bene? No, lei non è in grado, immagino, di dirgli sì o no, ma sicuramente dare delle indicazioni generali a chi sta accarezzando questa idea, questa opzione, magari perché non sa che ce ne sono altre a disposizione. Sì, in assoluto l'autotrapianto è una tecnica come un'altra, e quindi quando mancano dei capelli e ne vogliamo di più, spesso è la tecnica più comoda. Ormai le tecniche di autotrapianto sono comode, standardizzate, anche recenti, quindi si possono fare. Il problema, come per qualsiasi intervento chirurgico, è l'indicazione. Non è tanto calvo, non gliene mancano tanto, magari non c'è ancora un'indicazione all'autotrapianto, perché l'autotrapianto potrebbe addirittura quasi essere negativo, quindi no. E qui è lo specialista dermatologo che deve fare la diagnosi, e quindi deve indicare, se no ci sono altre alternative. Cuore e denari. I finanziari, Bastogia Agricola Centrale, Gemma 30.000, General Free, Iti Privata, Iti Invest. Ebbene sì, si intitola proprio La Borsa Valori, questa canzone di Lucio Dalla, che spesso ascoltiamo nelle nostre puntate a tema finanziario. Ma c'è ancora valore in borsa? Non è un gioco di parole, ma la domanda che ci poniamo oggi, ce la porremo con il nostro esperto tra poco nello spazio di Investire Informati. Ogni giorno i principali indici stanno testando da qualche settimana nuovi record, e allora vogliamo cercare di capire a cosa è dovuto questo fermento, quali settori stanno crescendo particolarmente, quali sono rimasti indietro e se su questi livelli capelli, vale la pena iniziare ad investire ora sul mercato azionario. Come sempre vogliamo coinvolgervi rispondendo alle vostre domande, che potete cominciare già a fare all'800 24 00 24. Attenzione, perché come sempre testeremo anche la vostra attenzione con il nostro domandone. Come sempre bilanceremo la piccola sfida finanziaria. Belli capelli, capelli neri, che t'ho aspettato tutta notte, tu chissà dov'eri. E noi torniamo ad occuparci delle nostre chiome. In studio con noi il professor Rinaldi. Oggi vogliamo aggiornare i nostri ascoltatori sulle nuove opportunità terapeutiche che la tricologia mette a disposizione e che in alcuni casi possono assolutamente sostituire anche il trapianto. Abbiamo già i nostri ascoltatori a cui chiedo di aspettarci giusto il tempo di chiedere al professor Rinaldi di darci un po' una informazione generale su come si sta muovendo la tricologia, che cosa sono le novità, quali sono le novità. Si sta muovendo tantissimo e devo dire che negli ultimi 10 anni sicuramente la ricerca ha fatto veramente passi, e la ricerca biologica anche. Ci sono dei punti fermi. Il minoxidil, che nel 1980 è stato forse il primo farmaco che ha fatto capire che si poteva fare qualcosa, va benissimo, va bene ancora. Quasi tutti quelli che hanno problemi di capelli l'hanno già fatto per anni, dopo un po' non fa più effetto, ma insomma è un cardine, esattamente come la finasteride. La finasteride però è un farmaco con effetti collaterali, non possono prenderlo le donne in età fertile, può dare degli effetti collaterali, e credo che alla lunga, io sono molto contrario, questo è il mio pensiero da medico, a terapie prolungate, perché le terapie prolungate con finasteride, e i miei amici urologi spesso me lo confermano, possono dare dei problemi alla lunga, invece dei piccoli cicli di terapia possono andare benissimo. Ma oggi ci sono degli integratori di cui dicevamo prima, che non integrano praticamente niente, ma sono merceologicamente non farmaci, quindi integratori, che hanno un'azione meccanica equivalente e quindi possono essere presi da chiunque senza effetti collaterali, con un'efficacia buona. E di che cosa sono composti? Ce ne sono a base di serenoa repens, di acidi di polinsaccharidi, da una sostanza, da un'erba che si chiama niponivea, c'è un nuovo prodotto, è un nuovo principio attivo che si chiama Ganoderma lucidum, si usa in Giappone da 3000 anni, addirittura tiene in vita tutte le cellule, che ha un'azione specifica, e il grande vantaggio è che con una buona efficacia non rischiamo praticamente niente, quindi donne in gravidanza, no, donne in età fertile, giovani, anziani, eccetera. E poi topicamente si è visto che i recettori da controllare sono tanti, quindi ogni tanto il minoxidil non basta, e quindi per esempio ci sono delle sostanze che sono dei precursori di estrogeni da applicare senza effetti collaterali, che aiutano tantissimo in queste condizioni. Naturalmente è il medico che decide, perché se ci sono controindicazioni non si fa. Ma una delle sostanze apparentemente più recenti e probabilmente efficace è il famoso latanoprost, che è un agonista delle prostaglandine, si chiama, che viene utilizzato per il glaucoma, e nella terapia del glaucoma come effetto collaterale praticamente non ne ha, da che crescono troppo le ciglia, e quindi dà fastidio perché crescono le ciglia, perché fa bene ai bulbi. E questo effetto tra virgolette collaterale è stato subito utilizzato per ridare, ma addirittura nelle forme di alopecia androgenetica, di alopecia areata, quindi funziona bene. E poi credo che il grande... La fermo un secondo professor Rinaldi, perché lei ha citato il glaucoma. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che fino al 14 marzo, è partita l'8, si conclude il 14, è la settimana mondiale del glaucoma, una malattia molto importante, è stata soprannominata il ladro silenzioso della vista, a cui noi abbiamo dedicato una pagina. Ci sono delle iniziative organizzate dall'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità che vi permettono di controllare i vostri occhi, soprattutto a partire dai 40 anni, e misurare la pressione oculare, che è un fattore di rischio molto importante. Sul glaucoma torneremo a parlare, ma non potevo approfittare di questo gancio che lei ma dato per ricordarlo ai nostri ascoltatori. Quindi la più grande recente frontiera attuabile, quindi che si fa tutti i giorni in ambulatorio normalmente, sono i fattori di crescita, per esempio dalle piastrine. I fattori di crescita sono quelle sostanze che ci tengono in vita e che regolano la vita di tutto, dalla chiusura della pelle all'osso che si rompe a tutto il resto del corpo. Quindi utilizzando quelli delle piastrine, che sono facili da prendere perché con un prelievo si prende, si può addirittura arrivare a stimolare crescita di nuovi capelli. Tutto questo è molto scientifico, è molto medico, quindi niente di miracolistico, non aumentano i capelli a chi non li ha, però si dice normalmente che nell'80% di chi fa questi trattamenti, almeno nella alopecia androgenetica, cioè nelle forme comuni o in quelle forme ancora più semplici, anche solo l'invecchiamento dei capelli, ci può essere addirittura un miglioramento di un grado della calvizie. Zero rischi, zero effetti collaterali, le piastrine sono le proprie. O addirittura ci sono questi fattori di crescita ricostituiti, quindi rientrano addirittura nella legge cosmetica perché non sono farmaci, ma che noi utilizziamo in ambulatorio, per esempio, addirittura per chiudere le ulcere chirurgiche o diabetiche che non guariscono, e per i capelli, che danno degli ottimi risultati. Quindi la ricerca è avanzata. Sicuramente al momento non si usano cellule staminali, anzi il messaggio è: ci sono centri o notizie di chi la spara un po', e quindi le cellule staminali che fanno ricrescere i capelli, al momento è vietato dalla legge, non c'è nessun risultato scientifico, quindi no. Ecco, la raccomandazione è sempre di affidarsi ad un esperto, un'indicazione che lascia un po' il tempo che trova se non è concretizzata con dei consigli, quindi il dermatologo è l'esperto di riferimento. Di fidare di chi, professor Rinaldi? Promette di regalare una chioma fluente ad un calvo? Sì. Oppure, beh, forse appunto è come diffidare di chi ti dice che ti farò guadagnare il 100% di interessi. Una chioma fluente a un calvo, no. Sì, certo, ci sono delle tecniche bellissime, sono delle protesi ormai magnifiche, però non stiamo più parlando di medicina, stiamo parlando di protesi da mettere. Allora, una dieta proteica potrebbe far perdere il volume ai capelli, ci scrive un ascoltatore? No, una dieta proteica fatta bene, bilanciata, anzi in teoria dà proteine ai capelli, quindi no, sicuramente no, basta che non crei problemi al corpo, ma se no no. Rasarsi a 0,5 volte all'anno fa bene o fa male? Ci scrive Ugo da Torino, ce lo dica lei Ugo, ci mandi una sua foto, professor Rinaldi. Dal punto di vista medico fa indifferente, nel senso che nei primi 3-4 giorni i capelli crescono un po' più veloci, ma dopo riprendono come prima, quindi è indifferente. Perché non c'è l'effetto prato, no? No. Taglio i capelli così si rinforzano. Sì. E quindi crescono più velocemente i primi 4-5, ma dopo riprende dicono, come normale. Andate quindi. Avanti voi. Esatto. Dove andiamo invece noi? Ma sui capelli afro non diciamo nulla, perché qua abbiamo anche questa popolazione di persone, insomma, che ha questo capello estremamente folto, molto riccio, e che comunque, insomma, persone che hanno bisogno di prendersi cura del cuoio capelluto e sì. Di tutto il resto. E con che consigli, professore? Beh, di tenerli controllati, apparentemente sembrano sempre bellissimi perché hanno masse incredibili, invece la patologia c'è uguale, oppure tutti questi disturbi sono uguali, ma c'è un altro problema: spesso queste donne o anche uomini, gli uomini li rasano, ma le donne li tirano molto, li stirano, e questo può creare dei problemi proprio di caduta o di non ricrescita più, quindi sì, c'è tutto un mondo. È vero che a proposito di raccogliere i capelli, la coda che molte donne fanno, io anche, perché quando mi tiro sui capelli non sempre trovo una pinza, alla lunga può in qualche modo stempiare o comunque segnare l'attaccatura dei capelli? Sì, perché è proprio un'attrazione, per cui a furia di tirarli e strapparli alla fine non crescono, è per questo che la coda deve essere deve essere delicato, in modo che non ci sia uno strappo eccessivo. Allora andiamo poi da Claudio da Verona, certo. Ma Roberta su Twitter, dato che abbiamo dato spazio ai capelli afro, ci chiede se possiamo dare indicazioni precise sul tipo di shampoo neutro da usare per i lavaggi frequenti dei capelli. voi dite sempre usate uno shampoo che sia delicato, neutro, ma noi come facciamo a scegliere? Ha ragione Roberta? Sì, ci si fida. Ormai gli shampoo sono tutti buoni, soprattutto quelli delle grandi aziende, ma proprio anche da mass market, senza problemi. Normalmente le definizioni di shampoo neutro o delicato per lavaggi frequenti significano shampoo che non sono particolarmente aggressivi e tranquilli. Credo che già questo basti. Buona azienda, in effetti certi prodotti molto low cost, come certi parrucchieri molti low cost, adesso non parliamo di etnie, ma è un problema, ultimamente ne abbiamo visti molti, utilizzano magari dei cosmetici o degli shampoo non regolamentari con dentro non si sa bene che cosa, possono far male, provocare irritazioni. Ma se no grandi marche, buoni prodotti. Allora, se mi dà una risposta in 30 secondi a Claudio da Verona, qui chiedo di essere rapidissimo. Claudio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Senta, domanda. Io soffro di edema seborroico, volevo capire, dato che io assumo anche dei farmaci tipo carbamazepina, ci può essere incidenza? Ma lei probabilmente soffre di eczema seborroico e direi esatto. Che no, non dovrebbe esserci, comunque non come dermatito eczema seborroico. Poi molti farmaci possono dare effetti collaterali sulla pelle con dei rash, quindi questo lo vado a valutare, però probabilmente ha solo un eczema seborroico fine che a se stesso. Sì, che può anche interessare il cuoio capelluto e quindi portare ad un diradamento, ma esempio, si cura, si può curare certo. con delle sostanze, con delle medicine o a seconda di com'è, di quello che si può fare. Va bene, allora vedi che ce l'abbiamo fatta finalmente. Senza la puntata nessun sui tipo capelli. Di allarme ed evacuazione. Grazie professor Rinaldi. Grazie. Noi chiudiamo. Grazie precisi per dare la linea a Deborah per l'appuntamento Investire Informati. Investiamo anche bene sulla nostra chioma, insomma, lavandola molto spesso mi ha molto rincuorato, perché io andando in palestra sto sempre lì a sciacquare, ero un po' preoccupata, invece vedo che faccio la cosa giusta. Fa come bene. Sempre mi fa piacere. Grazie professor insomma, Rinaldi. Grazie, grazie alla prossima. Grazie. Cuore e denari. Siamo sempre a Cuore e denari e giovedì sono passate da pochissimo le 11.45, quindi è tempo di Investire Informati, il nostro appuntamento del giovedì dedicato alle parole del risparmio e agli strumenti di investimento. Sigla. Investire Informati. I temi dell'attualità finanziaria, le dinamiche dei mercati e le notizie che movimentano le sedute di borsa, questi temi su cui ci confrontiamo per cercare di orientare i risparmiatori, ma un po' anche noi, sono questi i temi di Investire Informati. Anche oggi partiamo come sempre dalla cronaca per andare poi oltre commentando, se volete, le vostre scelte personali, se le vorrete condividere con noi, ma soprattutto con il nostro ospite di oggi. È tornato a trovarci Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto. Bentornato. Grazie. Chioma che va bene. Sì. Eccoci. Lava i capelli tutti i giorni lei? Sì. Fa bene. Non so se dobbiamo regalargli un libro. Siamo stati promossi tutti quanti dal professor Rinaldi. Le modalità per interagire con noi è sempre la stessa. 800 24 00 24. Come sempre vogliamo anche che siate protagonisti del nostro Investire Informati. Quindi ascoltate bene questa prima parte, perché poi nella seconda parte di Cuore e Denari vi faremo la domanda per testare se la nostra lezione ha lasciato il segno, e ai primi che risponderanno correttamente un libro della nostra biblioteca. Oggi abbiamo deciso di focalizzarci sul tema di maggiore attualità del momento, sulla borsa, sul mercato azionario, lasciando da parte per quanto possibile, perché poi è sempre lì che fa capolino, la Grecia, le negoziazioni per garantire l'aiuto finanziario di cui questo paese ha bisogno. Parleremo però, anche se non subito, dei rendimenti delle obbligazioni sempre più in basso. Abbiamo avuto un'altra asta stamattina, un'altra ieri. Parleremo degli effetti del quantitative easing di Mario Draghi, la manovra di stimolo monetario, super manovra varata il 22 gennaio. Parleremo anche dell'euro a precipizio, vedremo che effetto ha in borsa. Ma perché proprio la borsa? Perché ogni giorno i principali indici stanno testando, come dicevamo, nuovi record. Allora vogliamo cercare di capire a cosa è dovuto tutto questo. Questo fermento, quali settori stanno crescendo particolarmente, quali sono rimasti indietro, ma soprattutto c'è ancora valore in borsa? Dottor Alfieri, il grande domandone che immagino vi facciate anche voi investitori professionali. Peraltro, proprio nell'ultima puntata di Investire Informati in cui lei era stato nostro ospite, eravamo partiti da questo stesso tema, commentando la questione del rally di cui le borse sono protagoniste. A distanza di qualche settimana ci sembra di poter dire con ragionevole sicurezza che, più che rally, abbiamo a questo punto un trend di crescita del mercato azionario consolidato. È così o no? Sì, direi che in questo momento il rally sta caratterizzando soprattutto il mercato europeo. Si sta verificando quello che ci si aspettava, cioè si sta colmando la differenza, il gap che si è creato tra la performance del mercato azionario americano, che è molto salito negli ultimi anno e mezzo, molto più rispetto a quello europeo. Oggi la situazione è diversa, c'è un clima molto favorevole, direi a dir poco euforico, sull'Europa, e quindi le borse azionarie europee in modo quasi indistinto stanno salendo velocemente, a dispetto magari di un mercato azionario americano che in questo momento è più fermo, più direi certo. A guardare. Sono certamente tutte buone notizie, però ricordiamoci anche che quando parte tutta questa euforia generalmente ci sono anche dei segnali che vanno decriptati e che magari lasciano così capire che si può anche nascondere qualche bolla finanziaria dietro a queste tendenze. Cercheremo di capire se JP Morgan è di questo avviso, ma vorrei fare anche un piccolo elenco della spesa andando a verificare dove si stanno concentrando questi record. Quello che ha fatto parlare molto ultimamente anche per il suo valore simbolico è stato quello toccato dal Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani. È sopra i 5.000 punti, un livello che l'ultima volta che si è visto eravamo agli inizi del 2000, siamo andati a ripescare proprio la data stamattina con Marco Lombardo, il 10 marzo del 2000, durante la giornata questo indice toccò 5.132 punti per chiudere a 5.048 e qualche giorno fa ha toccato i 5.008. Cosa facevi nel 2000, Nicoletta, tu in quel periodo? Marzo 2000 facevo già i testi per la parte salute di Radio 24 e poi mi occupavo delle mie bambine, correvo un po', anzi camminavo, insomma le solite cose. Io mi ricordo che invece non ero ancora al Sole 24 Ore, sarei arrivata l'anno dopo quando poi la bolla, dottor Alfieri, tecnologica, cominciò a scoppiare e lì abbiamo raccontato di altre situazioni che insomma furono anche piuttosto interessanti, se vogliamo, perché lì fu il periodo proprio della quotazione in borsa di quelle meteore tecnologiche, di quelle società che non avevano neanche tanta consistenza, e se oggi potessimo rifare un po' una selezione su quello che c'era e quello che è rimasto, effettivamente potremmo raccontare delle storie davvero interessanti. Peraltro, ecco, di storie che ancora rimangono in piedi forse non ce ne sono tantissime. No, sicuramente c'è stato una grossa rivisitazione del segmento tecnologico, soprattutto negli Stati Uniti. Infatti. Però direi che fondamentalmente bisogna guardare anche alla qualità delle aziende, del fatturato che queste aziende adesso, quotate ovviamente al Nasdaq, stanno proponendo. Sicuramente c'è da dire che ci sono delle società molto interessanti che stanno realmente guadagnando molto, una fra tutte che tutti conoscono, la Apple, che ovviamente genera migliaia di miliardi di euro all'anno di utili e che forse nel 2000 ovviamente non riuscivano ovviamente a confermare questo tipo di risultati. Un'azione vale sopra i $700, praticamente con uno stipendio americano possiamo comprare due azioni. E il Sole 24 Ore stamattina sul giornale della famiglia racconta come proprio ha peso questo effetto innovazione. Apple, Amazon, Facebook e Google valgono insieme quanto il PIL della Danimarca. Senti che proporzioni interessanti. Ci sono due Nasdaq, dottor Alfieri, senta un po' che interrogazione che le faccio oggi. Il Nasdaq 100 è però lui sa, secondo me, è il composite. È quello che viaggia attorno appunto ai 5.000 punti, proprio l'indice composito. Che differenza c'è fra i due? Beh, fondamentalmente il Nasdaq 100 analizza solo l'andamento dei 100 più grossi titoli quotati al Nasdaq. Il Nasdaq Composite invece è quello che proprio racchiude tutto l'intero universo dei titoli, quindi delle aziende quotate. Ecco, ovviamente l'andamento è differenziato. Da una parte si fa una sintesi delle aziende migliori, certo, quelle più larghe capitalizzazione. Il secondo invece illustra probabilmente in modo molto più ampio l'andamento del listino tecnologico, ma direi un po' di più il settore tecnologico negli Stati Uniti nella sua completezza. Se avete qualche domanda sull'investimento nel settore tecnologico americano potete iniziare a prenotare anche queste naturalmente all'800240024. Siamo andati un po' a caccia delle società che sono cresciute di più dall'inizio del 2015, tra quelle che conosciamo, ma abbiamo scovato anche nomi che come dire ai più non sono proprio molto noti. Electronic Arts ha guadagnato dall'inizio il 2014 ad oggi il 139%, Avago Technologies è più 136%, NXP Semiconductors è più 112%, chi le conosce non lo so, Apple ha fatto più 55%, almeno ne conosco, così ne citiamo una un po' più nota. Ci fermiamo adesso, abbiamo il nostro giornale radio, ma con Investire Informati torniamo subito dopo. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, siamo sempre all'interno dell'appuntamento del giovedì con Investire Informati. Investire Informati. La nostra rubrica che cerca di comprendere i temi del risparmio, come funzionano i vari prodotti di investimento, cosa fare a seconda di come si muovono i mercati. Stamattina con Lorenzo Alfieri di JP Morgan stiamo analizzando questi record su record toccati da molti indici internazionali. Abbiamo focalizzato la prima parte della nostra trasmissione sul Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani. C'è naturalmente anche qualche parallelo con la tecnologia italiana, che certamente ha avuto una fortuna molto diversa rispetto a quella americana. Abbiamo spiegato come funzionano più o meno i due tipi di Nasdaq che conosciamo, il 100 e il composito, e abbiamo anche raccontato della società che ha guadagnato di più dall'inizio del 2014, quindi abbiamo preso un raggio temporale molto ampio fino ad oggi, Electronic Arts. Insomma, molti si sono sollevati sulla sedia perché abbiamo detto che non tutti conoscono questa società. Io personalmente non la conoscevo. Pare che produca videogiochi. Alessandro ci spiega su Facebook, oltre all'altro ascoltatore che ci dà un po' degli ignoranti sull'SMS, che è una software house appunto canadese che produce videogiochi, esiste da più di 20 anni. Beh, io non credo che tutti lo sapessero, per cui grazie anche per aver condiviso del vostro contributo. Detto questo, siamo partiti dal comparto tecnologico, Lorenzo Alfieri, ma rimaniamo sul tema settori. Se appunto dovessimo continuare ad analizzare la situazione americana, cosa sta andando particolarmente bene a livello settoriale, dove invece ci sono opportunità di crescita ulteriore, ricordando sempre che gli ascoltatori possono farci le loro domande all'800 24 00 24. Beh, chiaramente, come è stato correttamente detto, siamo in mercati molto alti, molto cari, come si suol dire, cioè effettivamente hanno già performato molto bene anche tutti i vari settori. Ecco, dovendo scegliere, sicuramente ad esempio in Europa il settore dei consumi, in attesa di questa ripresa, potrebbe essere un settore che, e già lo stiamo vedendo in questi giorni, potrebbe proseguire, in attesa ovviamente dei risultati concreti, cioè dei risultati aziendali che confermeranno la ripresa dei consumi, ad esempio l'elettronica, gli elettrodomestici, l'auto, ma anche ad esempio l'healthcare, il lusso, che sono ovviamente dei settori, quando la ricchezza si ricostruisce, che vengono ad essere maggiormente beneficiati da questo fattore. Il settore del lusso però in realtà con questa crisi degli ultimi anni proprio a sua volta in crisi non c'è stato molto, no? Perché magari proprio essendo un comparto che riesce ad essere proiettato sui mercati internazionali, in realtà compensa le perdite di quelle aree che invece sono in crisi da consumo. Sì, il lusso è diventato un settore globale e quindi non ha mai, diciamo, conosciuto una fase di debolezza. Se guardiamo poi alla seconda parte del 2015, in effetti del 2014 c'è stata una certa correzione, ma prontamente in queste ultime settimane sta ricostruendo una sua forza. È un settore molto sensibile anche alle oscillazioni sui mercati valutari, magari poi commenteremo questo aspetto. Sentirei però Aldo da Fossano che ci aveva scritto e quindi lo abbiamo subito acciuffato. Aldo all'800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio prima di tutto perché sono la seconda, se non la terza volta che riesco a entrare in linea, quindi mi sento non raccomandato, ci mancherebbe, però sono privilegiato. Si vede che fa delle considerazioni che ci interessano, Aldo, ci dica tutto. La ringrazio, è un settore, la borsa, che mi è sempre interessato come capire i meccanismi, ecco, io ho qualche piccola operazione la faccio anche io, però per proprio capire, tengo giornali, sono poco tecnologico anche se seguo questi temi, però io sono cartaceo, io sono proprio, io ho ritagliato la pagina del Sole 24 Ore e questo ci fa piacere, Aldo, però so che lei 20 anni fa quando il dopo bolla, il dopo venerdì nero di Wall Street, quindi c'era perso 21 punti o qualcosa del genere in un giorno, intendo. E quindi vado a rileggermi quelle cose e dico, ma il monito prima di tutto, però mi piace tenermi informato, Sì. La sua domanda mi dica. No, non capivo dove volesse arrivare, quale fosse quindi la domanda, perché ce l'aveva anche anticipata più o meno. Beh, con l'SMS sì, è il nuovo mercato America, che è già subito un nuovo mercato uguale bolla, e quindi mi faceva, sentivo parlare di bolla anche prima da voi, e quindi mi ha fatto paura, perché siamo appena fuori, non siamo fuori dal tunnel. Però, Aldo, la ringrazio, tra l'altro la sentiamo anche un po' disturbata, però insomma due cose interessanti dalle sue osservazioni le abbiamo tratte. Il nuovo mercato, il Numtel, è stato il primo nome con cui abbiamo chiamato appunto l'indice dei titoli tecnologici italiani, no? Quando nacque alla fine degli anni 90, Lorenzo Alfieri, Numtel, che cosa è rimasto di tutta quella realtà là? Sì, no, diciamo che chiaramente l'Italia non ha sicuramente una tradizione tecnologica, bisogna dire che in effetti a quei tempi sicuramente la bolla è esplosa proprio su un numero molto limitato di titoli che rappresentavano in Italia la cosiddetta tecnologia, ma poi di fatto sostanzialmente non lo erano se non in parte. Direi che oggi il quadro è radicalmente cambiato in Europa e anche e soprattutto sul Nasdaq ci sono realtà aziendali molto solide, molto forti, molto importanti, ormai globali, e quindi si può guardare, direi, con maggiore tranquillità rispetto al passato alla consistenza ovviamente delle aziende, del business che stanno producendo, e quindi probabilmente non siamo ancora agli eccessi del 2000 guardando a questo segmento. Allora, fra un po' faremo il domandone per i nostri ascoltatori, quindi state allerta, ma rimanendo agli Stati Uniti, Alfieri, questi record hanno avuto qualche giorno fa un piccolo stop dopo la diffusione del dato sulla disoccupazione americana, è successo venerdì. Può sembrare un paradosso, invece spesso sul mercato notizie molto positive hanno un impatto negativo. La disoccupazione americana di febbraio è scesa al 5,5% e questo ha fatto scatenare le ipotesi sul fatto che la banca centrale americana alzerà i tassi di interesse presumibilmente a partire da giugno. Perché il mercato azionario è spaventato da questa prospettiva? Ma generalmente dobbiamo dire che i tassi vengono rialzati per ad esempio controllare l'inflazione o spinte inflazionistiche troppo pericolose. Ecco, in questo momento negli Stati Uniti stiamo godendo di una fase estremamente favorevole di crescita sostenuta intorno al 2,5, probabilmente lo replicheremo anche nel 2016, comunque una forte ripresa dei consumi, una disoccupazione che sta scendendo, stanno iniziando a risalire anche i salari, quindi è un quadro molto importante, molto interessante e soprattutto molto solido. È chiaro che in una fase come quella attuale, cioè di massimi storici, ci sono ovviamente delle situazioni in cui alcuni investitori, anche grossi, prendono in parte profitto, e quindi ecco per quale motivo a volte abbiamo delle correzioni. Non vi vorrei ricordare che in alcuni casi le correzioni sono anche molto salutari, perché ovviamente si evitano gli eccessi. Quindi noi non riteniamo assolutamente questa una fase problematica. Storicamente, concludo, i mercati azionari, fino a quando i tassi sono rimasti nell'intorno del 5%, sono sempre saliti o comunque sono cresciuti in modo salutare. Ecco, al di sopra del 5% iniziano a esserci problemi e volatilità molto alta. Senta, parlavamo prima dei prodotti della tecnologia americana, sono quasi tutti diffusi in tutto il mondo, per cui le società americane che li producono poi naturalmente li vendono ovunque, ma il dollaro così forte non disturba questo business? Ma diciamo che il dollaro forte ovviamente entro certi limiti non può altro che rappresentare un elemento di conferma della solidità dell'economia americana. Sicuramente noi pensiamo che comunque ad un certo livello il dollaro inizia a essere esageratamente rafforzato, e quindi pensiamo che magari le autorità americane faranno ricordare ai mercati che non bisogna esagerare. Lei li vede sulla parità? Le vede le due più importanti divise alle quali noi ci riferiamo sempre, quindi il rapporto euro-dollaro, che si sta avvicinando appunto a questo livello? Noi riteniamo che se le dinamiche sono quelle attuali è plausibile una parità, ma crediamo nell'arco dell'anno, non in questa fase. Ovviamente, come vediamo, invece ci si sta avvicinando in modo molto perentorio, in un arco di tempo forse troppo breve. È giunto il momento del nostro domandone. Di ti concedo l'onore. Con grande piacere. Allora, come si chiama l'indice dei titoli tecnologici americani in queste settimane sui massimi da quanto tempo a questa parte? 800 24 00 24, candidatevi. Che cosa diamo sarà in cambio? Sarà una domanda intelligente? È molto intelligente. Che cosa diamo in cambio? Apriamo la nostra libreria di cuore e denari. Certamente. Quindi di denari molto probabilmente, ma se, vogliono, se volete cuore, esatto, tutte e due, altrimenti. Noi siamo qua. Allora, stavamo parlando di tassi di interesse, di politica monetaria. Abbiamo visto come le iniziative della Banca Centrale Europea abbiano avuto questi effetti molto significativi sul mercato obbligazionario. Anche quello, l'altro grande tema che stiamo analizzando ogni giorno. Peraltro stamattina anche sul Sole 24 Ore si ricorda come è andata l'asta dei bot annuali, che è stata organizzata ieri dal Tesoro italiano, con il rendimento che ha toccato praticamente zero, lo 0,079%. Il Sole calcola che se depuriamo questo dato dalle commissioni bancarie per fare questo investimento eccetera, fra un anno chi investe 1000 euro oggi si ritrova 9,70, 9,80. In realtà scatta una sorta di clausola, perché il Tesoro ha detto non possiamo far andare in negativo l'investimento naturalmente del piccolo risparmiatore, per cui scatta il cosiddetto decreto salva rendimenti. Sul tema investimento in titolo di Stato c'è la domanda di Giovanni della provincia di Mantova, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono un imprenditore qui della provincia di Mantova, il paese si chiama Viadana ed è un noto paese per la produzione di pennelli per le verniciature e articoli, diciamo così, per l'industria. Ah, grazie per averci raccontato tutto. Facciamo la pubblicità. Che l'economia reale, quindi, ecco, non solamente la finanza, no? Però vedo, Giovanni, che lei è appassionato anche ai temi finanziari, perché poi alla fine entrambi viaggiano un po' insieme. Come le sto dicendo, io sono un imprenditore che già ormai da 30 anni mi alzo prima delle 5 del mattino per svolgere la mia attività, e mi è stata data un'occasione dal mio promotore finanziario qui della mia banca, dicendomi di acquistare 8 mesi fa un titolo, diciamo così, un BTP a 30 anni, che me l'ha fatto acquistare a 97, diciamo così, di sotto la di parità, quindi sì. Sotto la parità, ecco. Adesso questo titolo me lo trovo esattamente stamattina a 126 e rotti. Mm-hmm. Volevo chiedere al suo interlocutore cosa mi consiglia di fare, perché a questo punto io ho fatto un investimento, diciamo, abbastanza cospicuo e mi ritrovo una plusvalenza non indifferente, interessante, con tassazione peraltro favorevole. Giovanni, è quasi come un titolo della tecnologia americana. Insomma, questi BTP ormai ci stanno abituando Alfieri anche a tutto questo, no? Come razionalmente, certo che uno potrebbe anche accontentarsi di portare a casa quello che ha guadagnato in pochi mesi. Sì, che è un po' il buon senso. Sì, diciamo che il tema sugli investimenti obbligazionari in questo momento è particolarmente complicato. È vero che si sono accumulati grossi profitti a chi ovviamente oculatamente ha comprato qualche anno fa o qualche mese fa titoli di Stato, soprattutto italiani, ci sono molte interessanti plusvalenze. Ovviamente la domanda è: vendo questo titolo e poi cosa faccio della liquidità? Ecco, non ci dimentichiamo che in questo momento lo scenario è abbastanza desolante, dove tutti gli investimenti obbligazionari hanno dei rendimenti prossimi allo zero, e quindi noi ovviamente consigliamo, eventualmente se del caso volesse prendere profitto, di guardare a soluzioni di investimento come ad esempio i fondi obbligazionari flessibili. Cioè in questo momento raccomandiamo non tanto il fai da te soprattutto sul mercato obbligazionario ma anche sull'azionario, ma rivolgersi ovviamente a soluzioni di investimento gestite da professionisti, perché ripeto la situazione è molto complicata. È ovviamente direi naturale, laddove ci sono interessanti plusvalenze, portarle a casa, certo. Ma poi dopo cosa succede il domani, e quindi ecco che anche perché c'è, come dire, un aspetto, mi passi il termine, di carattere emotivo, di finanza comportamentale. Come si fa a cambiare l'attitudine all'investimento se all'ascolto, come nel caso di Giovanni, ce ne saranno probabilmente anche altri di casi simili, ci sono risparmiatori che fanno fatica a vedere altro al di fuori di quello che considerano il solido e intramontabile titolo di Stato? Sì, è molto corretto. In questo momento per l'investitore italiano in effetti sta tramontando un po' un punto di riferimento che lo è stato per anni, cioè il titolo di Stato, un solido investimento che mi dà rendimenti garantiti e certi, ma anche e soprattutto interessanti. Il quadro ovviamente è cambiato e per quello facevo riferimento a una situazione difficile, soprattutto per l'investitore italiano quando pensa a cosa fare dei miei soldi se non ho più l'investimento obbligazionario di riferimento. Per quello dicevo bisogna rivolgersi a soluzioni di investimento diverse, come ripeto fondi gestiti da professionisti, perché bisogna diversificare. Bisogna diversificare sia come emittente sia anche come paese di riferimento, e quindi è un lavoro che non può essere, per così dire, non può essere svolto dall'investitore singolo. Anche perché poi questa diversificazione ci dà effettivamente l'opportunità forse di sfuggire un po' a quelle aree dove le crescite sono state già molto consistenti, dove forse si annida qualche rischio bolla. Ci sono però delle borse, come molti ascoltatori segnalano, che sono invece ancora molto sotto rispetto ai record di qualche anno fa, per cui bisogna andare a cercare anche queste opportunità. Intanto noi possiamo sentire Gaetano, è questo che vuoi? Esatto. E allora Gaetano dalla provincia di Roma. Buongiorno Gaetano. Buongiorno a tutti. La rifacciamo la domanda però, così almeno la rispolveriamo anche per gli altri ascoltatori. Avevamo chiesto, Nicoletta, come si chiama l'indice dei titoli tecnologici americani? In queste settimane è sui massimi da quanto tempo a questa parte? Le sa tutte e due Gaetano? Sì, il Nasdaq è sui massimi dal marzo 2015, 15 anni. Bravo Gaetano, si è preso l'applauso come lei ha sentito. È un investitore lei Gaetano, oppure stamattina si è candidato a caso? Che ne pensa di tutto quello che sta succedendo sui mercati? Osserva con attenzione? Diciamo che io faccio il trader, quindi sicuramente mi seguo molto bene. Grazie Gaetano, grazie molte. Libro di cuore o di denari? Denari, grazie molte. Lorenzo Alfieri, abbiamo terminato anche oggi, abbiamo rifatto questo giro nel mondo, abbiamo fatto questo piccolo focus sulla tecnologia americana, rapporto con i tassi di interesse che aumenteranno, insomma non ci annoieremo da qui alle prossime settimane. Grazie per essere stato con noi a Investire Informati, ci risentiamo fra qualche settimana. Mentre noi torniamo domani sempre alle 11 sì, con Paolo Corleone, chissà che sarà ancora con noi domani? Chissà. Sicuramente Carlo Lombardo ci sono. Una garanzia. Grazie. Aspettiamo buona giornata. Anche voi. A domani. Cuore e denari.